prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ci stiamo avvicinando a grandi passi, mancano pochi giorni all'inizio dell'avvento con l'ultima domenica di novembre. Questa settimana, anche se appunto con un po' di anticipo, ma dell'avvento parliamo, in particolare del fascicolo che la Caritas di Padova ha predisposto per questo tempo forte dell'anno liturgico. Ci aiuta in questo Giorgio Pusceddu, che è operatore della Caritas, per presentare appunto questo fascicolo. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, buongiorno. Avvento 2015, aprire alla misericordia, e il riferimento è ovvio all'anno santo indetto dal Papa. Esatto, questo è il titolo e il libretto che, come da qualche anno, insomma, produciamo ogni anno per dare uno strumento a chi opera nella pastorale, nelle parrocchie, nel territorio. Avere qualche elemento in più su cui ragionare, riflettere, qualche spunto per mettere in pratica azioni che possono essere educative appunto della carità, e con un accento in più, ecco, sulla misericordia quest'anno. Vedo dal sommario che la proposta di questo fascicolo è tripartita: liturgia, annuncio e carità. Esatto, abbiamo cercato di rispettare questa canonica tripartizione per appunto dare contenuti che possono essere fruibili da chi poi è impegnato nelle varie attività in parrocchia. Non so se posso, vado ad una descrizione subito. La liturgia, ecco, qua abbiamo fatto una piccola parte dedicata alla parola delle quattro domeniche di avvento. E poi dei suggerimenti per chi cura la preparazione o dell'offertorio, con una sezione appunto dedicata, o della terza domenica dell'avvento, che normalmente è dedicata alla carità. Ecco, qualche attenzione per curarla come comunità, come appunto responsabili dell'educazione alla carità, in modo che sia un'iniziativa, un evento, una giornata attenta, ecco, ai dettagli anche. E poi c'è una particolarità: quest'anno abbiamo prodotto per la prima volta un gadget che stiamo distribuendo ancora, è ancora disponibile, ed è il cubo della preghiera. E questo qua ha un target leggermente diverso, perché mentre il libretto normalmente lo distribuiamo a chi ha un impegno, in qualche modo una responsabilità pastorale all'interno delle parrocchie, questo qua è un cubo che ha una larga diffusione, cioè ci auguriamo che finisca nelle case delle famiglie, in sostanza. Perché il cubo? Perché c'è una parte della liturgia, che è la liturgia domestica, quella che si fa a casa, che anche questa è necessario curare, ecco. Quindi ci sembrava interessante produrre qualcosa che possa dare uno slancio a quel piccolo momento che è la benedizione dei pasti, che viene fatta a casa, per dire che anche quei momenti sono momenti di liturgia. Lo stiamo promuovendo in questi giorni ancora, costa 15 centesimi l'uno. Chi vuole può interessarsi facendo un colpo di telefono in Caritas per prenotarlo, ecco. Poi funziona come un dado, no? È un cubo per cui ha sei facce e su ognuna di queste è proposta una preghiera, quindi anche per i bambini può diventare un gioco, uno spunto per dire grazie per il pasto. Sì, ce l'ho a casa e con i miei figli c'è la gara chi la lancia ogni volta, no? È divertente, insomma, è per dare l'inizio in quel momento che poi diventa un momento di preghiera. Questo per la parte, diciamo, liturgica di celebrazione. Poi c'è la parte dedicata più specificamente all'annuncio. Sì, qua abbiamo fatto una raccolta di alcuni spunti. La prima è un'esperienza che è stata fatta nella scuola dell'infanzia di San Tommaso di Albignasego, che vuole essere una piccola testimonianza di è possibile fare educazione alla carità anche con bambini piccolissimi, insomma siamo di 3-5 anni. È una storia, una narrazione di quello che hanno fatto l'anno scorso, che può dare un po' qualche idea per chi ha voglia di sperimentarsi anche con gli piccoli. Poi abbiamo preparato delle schede per gli accompagnatori dell'iniziazione cristiana, quindi rispettando i canoni delle schede, dei fascicoli che sono, insomma, prodotti dall'equipe, per dare appunto un contenuto, uno sguardo, un'attività centrata sulla misericordia. Quest'anno è l'anno della misericordia, l'anno santo, e voglio dire, chi ci si incontra come gruppi di iniziazione cristiana può essere l'occasione per approfondire questo tema. Cosa vuol dire perdonare in famiglia? Questa qua è un po' la domanda su cui gira queste schede. E poi ultimo abbiamo inserito le proposte che dedichiamo ai giovani e agli adolescenti, con appunto le piccole descrizioni di queste attività, la giornata mondiale che sarà l'anno prossimo a Cracovia, le 10.000 ore di solidarietà, il capodanno che stiamo preparando e che sarà Comignani il 31 dicembre, un'attività di servizio, il laboratorio di realtà partecipata e un attimo di pace che... Su alcune di queste abbiamo già i percorsi specifici, su altre invece ci soffermeremo nelle prossime settimane. E poi la terza parte, insomma, che ha il nome proprio nella natura della realtà della Caritas, cioè Carità, cosa c'è in questa sezione del fascicolo? In questa sezione ci sono questi elementi. Allora, il primo è un'attenzione alle Caritas parrocchiali e vicariali, con una proposta di preghiera, di momento di, insomma, di ritrovo per volontari. Noi facciamo tante attività, i volontari si spendono tanta energia, tanto impegno per l'incontro, per il servizio verso chi ha qualche tipo di difficoltà e fatica, e ci sembrava interessante costruire per loro un momento in cui possono trovarsi insieme a pregare l'uno per l'altro, per volontari, perché anche questo è un momento interessante del vivere la carità, non solo la carità verso chi soffre, verso chi è, chiamiamolo ultimo anche se non è così, ma anche chi a fianco a me è comunque un volto, una storia, una persona, quindi un'accoglienza orizzontale a 360 gradi. E chi poi dopo questa sezione, quindi una proposta di incontro, di preghiera, c'è una parte dedicata al report dell'osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas diocesana, il box dedicato all'onnipresente, come giusto che sia, fondo straordinario di solidarietà, un servizio segno importantissimo che dice tanto sul nostro impegno, insomma, per la dignità delle persone. E l'ultimo, una sezione dedicata al tema caldo di questo periodo, che sono i profughi, trattato in questo modo, non tanto con informazioni che poi si possono trovare su dossier di Caritas italiane, in altri elementi più formativi. Questo qua vuole essere a un taglio un po' più pastorale, cioè fare delle provocazioni o degli sguardi, lanciare degli strumenti che possono essere lo spunto per ragionare insieme su questi temi. Infatti abbiamo inserito un ipotetico diario di un bambino, una lettera, un diario anzi, che racconta cosa vede un bambino rispetto a questi temi. La preghiera dei genitori con all'interno delle contraddizioni, anche con gli irrisolti, le domande, i dubbi su questa questione, e poi un elenco di strumenti che possono essere utili per approfondire, per chi vuole educare, vuole sensibilizzare, vuole anche solamente capire e conoscere meglio tutto il mondo, appunto, dei migranti e quello che viene dietro. Per concludere, l'ultima, la lettera di invito all'accoglienza di un parroco che sta accogliendo, lo fa con gioia. Grazie Giorgio, allora con te ci ritroviamo per uno dei progetti specifici della Caritas. Buona giornata. Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.